male. Ah, qua sì. Pensavo che eri con cosa. Ti avevo mandato un messaggio, non ti sia mai abbalzato prima. Con chi dovevo essere? Ero coricato, mi sono comunque andava. No, pensavo che eri con cosa. Piazza di caffè. Andato. E raga, raga, ma Roggero. Vabbè, vabbè. E io già sono qua. Manco Marcolino Condor c'è. Ah, va, la Sarrada ci sarà addormito. Boh. Con il marito delle nigeriane. Se non lo provo che non c'entra. Con le nigeriane sì, Marcolino. Hai visto stamattina come è entrato quando, quando l'abbiamo cercato? Ah no, adesso che con le nigeriane non ci cerca a noi. Allora sai che facciamo? No, la so, perché... E allora, dimmi tu. Anche Briciola non si è sentito, l'avranno chiuso da qualche parte. Luca, cosa si vende? Ascoltando, leggendo più che altro. Un capo. Chiama Roggero. Marcolino, lascia le nigeriane. Tanto il massaggio non te lo fanno. Sì, le tebighere, Natalia. Ho già remi nella linea, bighere, da attrezzo da esecuzio. Allora, e poi quello è lì. Oh, yeah. Con i mariti che hanno. Oh, si fa gaggia giapponese, no? E abitivo mai. Anche se c'era il distante. Marcolino, non ti sedere il marito dietro, mi perché la tua macchina è piccola. Non sa mai. Via Scraboschi. Poi è andato dalla zia. Coso? Marcolino. Ma è strano, con questo tempo non penso. Sì, ma da quando c'è la carambina, capito, è sempre lì, capito, a sparare agli alberi d'olivo. Allegria della zia. Poi ci sono tutti i buchi dei nodi dagli alberi e invece dice che gli ha fatti l'uso la carabina. Allora. Già si può. È un criminale quel Marcolino. Allora, sarà contenta la zia di stare trivellando tutta la casa. E voi dici proprio da zia dampa la roba. Mette tutto nelle buste nere al cassonetto, via. Cosa, Natali? La zia di Marcolino, tutto nelle buste nere e poi al cassonetto. Ah, sì. La lezione datagliela di carabina. Raga, Marcolino. Io c'ho la carabina, io non ne ho di quelli lì. E ormai stanno usando anche a caccia e cinghiale. Io mi sto pubblicando parecchie di carabine, perché li usano per la caccia e cinghiale. Sì, avanti è dalla moda, prima usavano il fucile da caccia, adesso è entrata questa moda della canna rigata, ma non hanno compreso che è pericolosi, no? Sì, ormai è una moda. Dice che sono... prima si usavano sì, gli automatici, con le palla. No, era proprio proibita. In Sardegna era proibita l'arma rigata, capito? L'hanno messa da poco. Ah, fate in strage invece. E a vari girani da lontano, con un binocolo. Faccio un bello quello col binocolo, Porca miseria. Sì, sono armi pericolose, pure a chi batti in un bello. Capito? Secondo un DP della palla rimbalza è pericolosa. Io ce l'ho una col cannocchiale, però la mia caccia non la puoi buttare. A chi sta ciappando la rete non mi fai va giro. Perché non la puoi detenere neanche? Sì, a detenere sì. Però in America la usano, quella che c'ho io, però qua è proibita quel calibro lì, capito? Sì. Oh, scusa, c'ho il fucile a pompa, se lo voglio sparare il cinghiale lo sparo lo stesso a palla. Ti porto la fotografia a colui, il suo di Rivaggi. Oggi ci vuole anche l'armadietto che molti non hanno, obbligatorio. No, non è obbligatorio, chi l'ha detto che è obbligatorio? Non devono essere accessibili a gente che non è abilitata, capito? Però non ve ne vuole l'armadietto blindato, è tutta una cavolata. Io sapevo che invece è obbligatorio. Sapevo che era obbligatorio. No, c'è la legge apposta, se era stato obbligatorio l'avrei saputo io, non è obbligatorio, solo che non devono essere alla portata di gente che non è abilitata all'uso di quelle armi, capito? Vabbè. Diventa un ladro in casa, non devi vendere, tenerle blindate. E lei dove c'è pericolo, sì. Cazzo. Io per esempio ho la porta blindata qua, se fa entrare devi va a casino. Ci sono le telecamere, cazzo. No, che non è tanto pazzo, il bello per rubare il drone. Ma è quella di fronte a casa mia, con la portoncina blindata, sono entrato, devo battere tutto, sono entrato. Capito? La bella hanno imbarrato gli anni di Trento, ma fa entrare, capito, la camera. Di dentro gli hanno spaccato a colpi di coso la serratura per entrare, perché la camera era chiusa a chiave. Capito? Però la porta di fuori, blindata, vedrà nel becca, avevo battuto tutto, sono entrato in silenzio, io qui non ci siamo accorti di niente, capito? E lei aveva chiuso la camera da letto, però gli viene fatto danno. Poi vabbè, erano quelle porte tamburate, quelle classiche in legno, in camera da letto, hanno fondato brutto Trento per un gattone, hanno rotto la serratura, sono entrati e hanno fatto un razzia. Però da fuori sono entrati come se ti avviene la giave. Sì, che cavolo di serratura ci aveva, che allora, questa qui, nel portoncino blindato. Boh, mi pare strano. Sì, entrani come te nuda. Questa fanno una giave enorme, però. Se la studiano prima di entrare sicuramente, chi è, chi non è, li tentano, lui ha quant'anni quattro minuti. E beh, gli augurici sono i rumeni. Magari avevano la chiave bulgara, capito? Là, con quella lì sì che la. Ti guarda e ti dice che non è. Ma c'è di Badin, no? Qua è la Iana blindata, è sentata in una stessa. E beh, lì è la convenienza della Iana blindata. Alla fine si entra addirittura un ghito battato. Ma sono tutti che l'hanno la chiave bulgara. È una chiave che ci ha data la serratura e fa la mappa della serratura. E bisogna saperla pure usare, sennò non hai la bregusina. Scusa, Adesso qua mi rientra in onga, vado a bere la prima volta che busco le telecamere e l'ascensore, sia nel corso, nel pianerottolo, cioè, sia dentro casa. Come te arrivi subito immediatamente un messaggio di telefono, ma arrivo, capito? Per poco di fuggito. Sì, anche a me così. Anche qui dentro c'è la telecamera dove sono io, solo che se ci sono io è spenta, se invece io esco accendo, capito? E c'è nel pianerottolo, fuori, i noghi Drenzo, insomma. Si entra e si vede che è entrato. Potete registrare subito dove sta qua, intrusione, subito lì. Ebbene, anche le cagnie sono così. Pensa, chissà chi vede fura, chi vede tutto il piccolo, no? Quella lì, cazzo, di notte pare che sia come te di lì. Si vede giaro giaro a colori così come te di lì. Sì, almeno si distrugge allora. Bisogna metterci un pitbull all'interno. Ah, beh. E allora, qui c'è l'umaco, si risbrana. Lo rilascia a dentro. Sì, non posso fare le medie più maduro con questo. Povero cane. E i pitbull non sono cuscino, non si fanno prendere dai bocconi. I pitbull non ti danno il tempo di dare il boccone, se lo fai direi un boccone con picco. Vai, lanci l'altro boccone, come ti trovi? Ah, è così. Per il mio, per esempio, la terra non tocca nulla. Anzi, ti la devo da io la cosa a mangiare. E se no non ne mangia. La devi addestrare, se non cane da, se tu devi addestrare, se mangia, se non è addestrato, altro che. Il mio è addestrato, infatti, non ne mangia la terra. Gliela devo dare io la cosa. Se non gli do l'ordine io non ne mangia. La devo mettere io nella ciotola, solo dalla ciotola e dalla mano mia a prendere la roba. La terra non tocca nulla. Si che tu dici, se io gli do una cosa che gli dai tu da mangiare, ma a me non la prende e la capisci? Sì. Però immagliami, ci sa si mangia la mano lui e immaglia roba. No, io ti sto dicendo, io gli do una cosa che se gli dai anche tu, no? E gliela do. Sai che non me la do con la mano in bocca, no? Ma gliela butta in terra e ti dopo ti può più dire se la mangia. Ho detto che non ne mangia, non tocca niente da terra. L'ho fatto perché qui buttano i bocconi, non hai capito? Cazzo, secondo cosa capiteggia, mangiare il boccone e ti ammazzano i rugani. È per quello che io l'ho fatto, non per i ladri, per questo o per quest'altro. E a chi no, mi sono una massa di vassalli, di pittosi, gazienti, bah, che non vale niente. Ma l'ha ammazzato il gatto così. A mio zio l'ha ammazzato il rugani, nonostante era abituato. Non ne pigliava. Il vicino si presuppone, perché solo da lui poteva prenderlo, capito? Solo da lui, perché lo conosceva. Hanno avuto parole e così che hanno pensato se vindicarlo, a chi giorno dai tu potevi pigliarlo in questa maniera. Ed è la virina, capito? L'hanno avuto con la bocca e l'abbiamo messo giù. Senti, ci devo parlare. Senti, ma che cosa vuoi da me? Cosa vuoi che ti dica? La gente purtroppo è delinquente. E poi almeno avesse avuto un coso, no? Il cane si è morto, si è fatto danno, ha morto tuo figlio, c'è tutta la ragione, ma non è perché abbiamo avuto parole noi, grazie a mamma Cerugani, non pensate adesso bellissimo, puro e tutto quanto. Dai. Ma mi fa strano che abbia mangiato da quello lì, proprio un pastore tedesco, ma... Vuol dire che non era addestrato bene, perché la terra non tocca niente, ma così uno gli dà di la roba, non mangia, o da mano mia o dalla giottola suia quando mi la bongo io, però. Sì, ma per essere abituato, è attaccato di casa, si cena insieme, barbecue insieme, si c'è rugani, è abituato, come te di famiglia, che si bastono, capito? Ma sta lì. Anche loro li davano da mangiare, quando non c'erano mie zii li davano anche loro e lo mangiava, poi hanno avuto parole, chi tu sappia come ti vendicarsi però, capito? Pigliarsi la rugani. Peggio per il padrone non è, quando quello gli dava da mangiare glielo doveva proibire, capito? E manco da ruizino ne doveva mangiare di cosa, quindi è paghisso. È logico che fai risene, impari, ti arreghi rugani, gli dati la magna all'altra, è logico che la magna. Allora. Ciao, avanti. Ciao. Dove è Gianni? Era Gianni, ci sarà... Abbioccato. Gianni. Ma non è frequentemente con Marco Lilla più buono. E a far vivo? Sì. Ma chi so che non risponde? Ah, so così, è Marco, andava a Gianni. Ma mi pare che è Marco che andava a Gianni. Ma capito. Cos'è che siete di zenni? Lasciatemi vestire. Mi trovo più ragione. Perché era nudo. Ah, io per parlare a Marcolino pure, dai. No, non c'è Marcolino. È andato a cambiarsi le camicie perché ha sbagliato misura. Natalia. Mi sono tolto tutta la roba che c'avevo per il funerale, dai. Perché poi sto libero almeno con l'altra roba. Ho capito. C'è un macchinone Silanos, ma enorme, mi. Non l'avevo mai visto così grande il carrifugio. Sembra una Rolls Royce di chi si vanni, però. È sempre un carro funebre, però è un bel carro funebre, è fatto bene. No? E allora, anche un moccio viaggiava lei, era contento. Purtroppo tutti ci finiamo lì dentro. Sì, quando mo come ci cavani già. È un problema che non lo vedi con cosa t'arregga. Non t'arregga nei voli di scarretto che di rubimmi di cosa, per me. A me le vuole bruciare pure con un manopattino, con i cucinetti, chi la diva. Cosa mi ha fatto? Quando sono con voi, tu non sto intendo nulla, eh. Poi aspetta, ragazzi, chi si vuole andare via? Puoi lasciare scritto, io voglio il carro di Silanos, capito? Quello poi ogni tuo desiderio sarà... Paghende però. E paghi tu, non mica paghiamo noi. E paghi se io non dago niente scritto a Romanco. Pigliano un pezzo di tavola di sotto a misura, mi vado in un carrello, in chi mi si porta in aggiotto. Non avevo nulla a fucarmi. Io già faccio l'agenzia pure per sotto casa per farti un conto. Che ce l'hai, pure funzionato, sì. Se vuole pure a Pignac che ti conosci, ero visto di un carro funere e vai pure visto che pieni. E poverino, anche lui se n'è andato, dai. E lo sai cosa è successo? Tyson, prima di tornare a casa, ogni volta andavo a trovarlo, mi tirava per andare a trovarlo, no? Perché era nell'agenzia. E entrava dentro e lui se lo coccolava tutto. Adesso ultimamente, dopo che è morto, lo faccio sempre, vuole andare lì, capito? E la moglie l'altra volta esce da voi, non c'è più già le sebusabini, poveracci. Ehi, lo credo. E lo cane era abituato ad andare a ciapparlo, compreso. E allora? Lui mi ha detto addirittura che coccole ai suoi, c'era ne a due, c'era il padre più piccolo, adesso uno è morto. Non ne fa i suoi di coccole. Faceva solo a caso. E lo credo che il cane vuole andare. E io sono in coccoleggia andando. Forse c'era qualcuno sotto, non ho capito cosa ha detto. La cosa, la becco. Ciao qua. Avanti, Natale. Guarda, ci sente ancora l'alternata, che sto spostando l'alimentatore a vedere. Si sente? Ho capito cos'è, là. Oh, cazzo. Ciao, ciao, qua. Come se vuoi restare, non c'è problema. Ciao, ciao. Luca. Guarda se si sente adesso. Guarda. 1, 2, 3, 4. Ha fatto niente. Ok, ho trovato la posizione giusta. Era il microfono troppo vicino all'apparecchio e entrava. Ehi, capa. Così. Ma. Luca, ci sì. Natalino. Oi. Riprendite la gatta, gatta. Chi è cosa riprendi? Mi senti muti. Muti. Io perché stavo facendo delle prove, stavo spostando il microfono, controllando l'alimentatore, stavo spostando un po' di roba, perché c'era l'alternata. Oh signore, me ne dentro. Ma che dai, ci siamo qua. Io non posso essere accusato, mi vado in aria a china, ogni tanto mi devo bisogno fare così. Gabizzari direi buonissimi. Una cosa gabizzari, oh, yeah. La la vecchiaia carogna, prima non mi faceva nulla, va, a me non puoi stare seduto, c'è una sedia pure di tutto rispetto, però purtroppo la schiena fa male. Lei Natale del video l'hai visto l'ultimo? Ah sì, l'ultimo? Sì che l'ho visto. Ehi, canto coreani. Cazzo, grido. Perché sono loro che sono maligni, cazzo. Non vogliono entrare in 27, mi. E gli fanno pressioni a questi radiamatori per non entrare da noi. A chi ha pisciato, diciamo. Cazzo. Poi c'è la Braviedi, che è meglio. Ha messo la pressione. E allora? Ma io credo che ognuno sia libero, credo, poi lì non lo so le regole come sono, e io credo che ognuno sia libero di andare dove c'è gente alla fine. Ma allora cosa dico, sia Misani. Aspetta. Oia. Stai. Oia, oia. Luca, dimmi che mi ho spostato. Sì, anche io sto rispondendo a dei messaggi, che ti mi manda dei messaggi SMS, blu, oia. Signor, vabbè, anda bene Mela, dai. Su Gianni ha fatto l'entrata di Urione e città di Massoni, boh, ma c'è Maddu. E non parla. Non sei abbioccato Gianni. Magari aveva solo messo il drummiglio. Insomma, per farla breve. Tu Marcolino se ne andava i nigeriani, boh. Scusate tu. Se tu stanno avesse mi arruinati. Oi oi oi. Cosa c'è con quest'ecco? Ciao, Guadalino. Ciao, ciao. Adesso lo metto pure io l'ecco, mi fate da bravi. Bravo, bravo, meglio, meglio. Oi, oi, oi. Cosa ti fa male? La calabrese. Togli l'ecco, non si capisce un belino. Mi fa male la gamba destra. Ah, ecco. Ecco, il dottore l'ho chiamato, glielo ho detto. E mi ha detto, ehi, ma quanti anni c'hai? 80. In età, capito. Quindi, no, dottore, ho detto, scusa, anche la tua gamba c'ha la stessa età, quello non mi fa male. Sì. Oh, non c'è nessuno qua. E ci dovrebbe essere Luca, Gianni, ma non parlano. Li facciamo parlare con Muro allora. Eh sì, con il Muro. Povero di marmo. Ora, ora, ora, ora. Attenzione, Gianni, svegliati. Ha bisogno di sarà abbioccato al vero, mio. Si sarà abbioccato, si sarà su Gianni. Gianni, mica è pronto il bodo di mammo. Ti sono mangiato un mese, dormito. No, era un funerale, ha detto, era un funerale. È tornato, ha detto due parole e poi non è entrato più. Boh. Si è dormito. Sì, ha bisogno di sarà abbioccato. Che giornata schifosa, Atalia. Vieni, minia, dovevi andare a mia cognata, io. Ma è città anch'io. E da voi sta sempre biscia che ti biscia. Vento, chiccio, chiccio, ma vanguarda. E mi sono stato a casa. Giornata brutta. Anzi, siamo fortunati qua. E l'Emilia Romagna è un casino. E non ti credi, siamo funzionati. A Caltelli ha traripato il fiume, ha traripato ed è comincia in Chivi, in provincia di Nuoro. Di Nuoro. Ma la coppa do sempre, ce lo sai. I pisigrossi che automaticamente non fanno, diciamo, nelle sponde del letto, del fiume, non fanno il muro di contenimento e cemento armato. Largo 40, 50, 60 centimetri. Quindi non lo fanno e la terra ovviamente con l'acqua, la forza dell'acqua, la figlia stava in paese, pure fatti casino. Infatti. Sì, a scuola mi impieghi sul di Andrea. E così che andrà successo all'alluvione a Olbia. Muta, signori, per lei lo vivi. Ed ero preoccupato una volta. È successo un casotto in Chivi, sia in provincia di Nuova dove è a Olbia. Però adesso stava dicendo che è successo in provincia di Nuoro, a Galtellì, che il fiume ha straripato tutti. E lei come te in Chivi? Mi ha mandato un filmato. Purtroppo. La gente si mangia i soldi in Natalì. Le tasche si pieno di soldi e non gliela tutti nulla. Cioè praticamente la cosa li vota queste persone, non l'ho preso. Quando poi succede il danno, io allora cerco di qualche aiuto per fare quello che devo fare, per essere luci. Infatti, a Maghi su Saviano, lo sa cosa ha detto? Cazzo, che la guipa dell'alluvione dell'Emilia Romagna dice che è colpa del governo Meloni. Cosa cazzo entra la Meloni che andò 6 mesi? Cazzo, se l'Emilia Romagna erano sempre i comunisti, cazzo, la vacca per 6 mesi è successa l'alluvione. Boh, è colpa della Meloni ogni cosa adesso. Ma se la Meloni è penetrata, cosa vanno a rubare i cazzi? 13 anni viene a rubare. Poi in Emilia Romagna non c'è Prodi, la Mortadella è il professore Macu. Li sa bene il professore Mortadella, puzzinoso lo vecchiane. Chi sa pure usufruito di una legge che aveva fatto Berlusconi? Di non pagare i tassi di successione, no, abbiamo fatto. Cazzo, ha dato subito 800 milioni ai figlioli. Sarò sicuro, no? Vabbè, tutti i padri sono, non ce lo devo fare Natalì, capito? Per carità che gente. No. Ho abbucato lì un vecchio disgraziato. E poi l'ho visto su Facebook, prima il gelato pagavi 1500 lire, adesso lo paghi 3 o 6.000 lire. Hai capito? Ridendi, ma cocco. Ma cocco duro, oh yeah. Ma la stiamo verde, dai. Sostieni la ricerca. Sorvoliamo. La guipa di Meloni è da appena 6 mesi. Ma che cosa ne spendi? O bene o male la sta facendo qualcosa. Chi si non fa niente, si mangiava l'anidrina e boom. La PD ha fatto sempre così, capito? Si è autovotato, nessuno l'ha votato e usciva sempre il PD, caso strano. Sempre da governo, da 13 anni. E cosa ne ha fatto? Nulla. Altre che erano da tutti quegli anni al governo. Si sa che l'Emilia Romagna è sempre stata rossa, Tony. Cazzo, quindi Lirina, cazzo, la mangiati. I rossi se l'hanno mangiati i soldi. Non hanno fatto quello che dovevano fare per poter limitare almeno i danni. Non dico che i danni non ci sarebbero stati, ma non così però. Se avessero fatto i lavori che bisognava fare, non sarebbero stati così i danni. Ci sono molti burbassoni, bovarazzi. 14 massoni ce l'hanno sulla coscienza tutto il PD. Poi era molto vice segretario del PD che pare una scimmia, addirittura l'hanno sputtanata dicendo che è andata nella piazza la prima volta con una borsetta del 1000 euro che non c'era niente, morendo di fame, buffona, e va a dire cosa alla Meloni, ma non serviva alle piccio, cazzo. Allora, oltre che lei dica sei a burro incredibilmente coloso, che un cucchiaino così gli dato che era prima detta come si è entrato subito. Bene. Ha detto la cazzata degli Ussori, non solo degli Ussori, in mare di Ravicuti tutti gli immigrati, cosa cazzo mi ha fatto prima gli italiani, ci da poi l'avanza all'altro, quindi. Dimmi giusto come avete di mare. No, Natalì, io dico questo, con tutti i soldi che stanno prendendo dalla comunità europea per questi cazzo di negroni, praticamente, se non li facevano entrare, i soldi che spendevano per queste persone aumentavano le pensioni, era tutta un'altra cosa. E allora, invece darsi che si pensioni di fame, cazzo, e li si prende di fame che siamo biglienti, anche negli altri paesi, sono pagati al doppio di noi. E qua della Germania, praticamente prendono disoccupazione da 900 a 1000 passa euro, cosa che non che manco però praticamente, raga. Abbiamo imposto manuale in funzione di invalidità e abbiamo fatto meglio. Ma chi uno con 300 euro non penso che cambiano. E cosa fai 300 euro? Lo giro della cantonata, non vede più. E infatti, che fanno la vergogna, me ne avrei fatto a dare queste pensioni così a questi invalidi che non possono lavorare. Ma vadano e se ne facciano la vergogna, se ne facciano. Aspetta che mi cambio il microfono, attimino. Ok. Vabbè, adesso la voce è più bassa perché c'ho il microfono normale. Adesso la mia in mano... il manuale, capito? Perché con l'altra volta ho fatto le mani in pizza, è un casino, perché il numero che avevo fatto praticamente è piccolo che ho fatto col microfono e non ci sta in piedi. E ho capito. Sì, ci sto ancora lavorando. Ah vai, c'ha raggiara la radio, Bruni. Veramente no, bella. Tranquillo, tanto c'è solo un paio di fuori. Cosa ti volevo dire? Cazzo, mi ne avevo fatto io una vagogna da pensioni agli invalidi così. Così bassi. Cosa mi dicevi da fare? Quando uno si sbaglia poi si sposa con... Cosa fanno? Nulla, poveracci. Non si vuole ribellare. Comanda niente, fanno sbagliare i piatti. E io penso che me ne vado fuori. Aspetta, dov'è che ho letto lì in Spagna? Tenerife. Dico 900 euro al mese di pensione, c'è scritto che vivi da rente, capito? Io ne prendo in più, quindi sto ancora meglio. E quindi poi la sanità non paga niente, nulla. Non si trova molto lavoro, invece come c'è un altro, nemmeno affrontato. L'Italia è incazzata perché molti pensionati sarebbero andati a Tenerife. Lì non paghi, diciamo, quello che paghi qua. Cosa avevo letto poi, se non vado errato, a Tenerife? Che praticamente, dunque, mangiare in ristorante uno dei migliori come si deve, paghi 20 euro a persona, e non che non ti basta 60 euro, 80. Ehi, già lo so, anche un amico mio che se n'è andato in pensione, che ragione tra il comune, se n'è andato fuori, se n'è andato, perché dice che lì fa una vita da nababbo con la pensione che prende. Perché qua non avrebbe potuto vivere perché era una pensione da fame, vuol dire. La massima, anche i contributi ci sono i comuni la via. Però non prendeva i soldi per poter fare una vita, insomma, come si deve. Dice con quella pensione io faccio la vita da nababbo e se ne è andato via. È logico che la gente scappa da qua, se qua non puoi vivere. Beh, certo. Io dico questo, se io prendevo 2 milioni e 2 milioni e 3, dammi una pensione adeguata in base al caro vita che avete messo, perché hanno messo. Il cumaco di Prodi aveva molto l'euro e si è cremato. Allora dammi 2.000 euro e io non parlo più. Allora vivo in base ai prezzi che sono qua. Invece no, a te te ne dato la Mindai e i prezzi sono lievitati. E ognuno ne ha approfittato. Dico ne ha approfittato, non è che è ingiusto perché a me mi hanno mandato la luce e aumento questo, ma un attimino, tu puoi aumentare una cazzata di un prodotto, lo puoi aumentare tutti i prodotti, come fanno i negozianti, i commercianti, eccetera. E chi ci viene a dare male a me, capito? Poi sì, l'italiano sta spendendo di meno, è per forza, hai fatto alzare i brici che fate di schifo, è un vero nozio a farmi con la missione a mangiare, farmi di lì e poi lo faccio più di là. E come ti fai a arrivare a fine mesi? Non è chissù. Non è chissù, vanno speculando, hanno fatto di tutto. Ti sono brutti, da poi c'è a cura a terra, da poi. Ma ti pare io, c'ho cazzo, che sul caffè costava 100 lire, mi ricordo, al bar. Eh? Oggi mi lo fai pagare più di 2.000 euro, di 2 euro, lo gozo. A chi un euro costa è 2.000 franchi, Emmi. Gira che si gira. E lo caffè mi lo fai pagare più di 2.000 franchi. Boh. Sento il motivo. Così la salì. Io penso appena è uscito l'euro, eravamo all'industriale lavorando con il mio collega, io ci vogliamo una cosa a bere. E andiamo al mare vicino all'industriale. adesso ciccione, che c'è la discesa. E cosa ci prendiamo? Dice mio, io ho una bella birra, una di quelle vuote a perdere. 2,50 subito ha detto, ma sta scherzando? Perché? 5.000 lire, ma tu sei matto. Cazzo, a negozio la butteria con 1,70 al zicco, perché l'ha già pigliata la salì, e tu mi fai 2,50, ma tu sei tutto matto, siccome mi avranchi. Vai, vai, fate un gipanetta, io già matto, andiamo a negozio la butteria a pigliare la birra, che è più buon lavoro. E infatti, perché facevi il conto con le lire e vedevi che era meno metà quello che ti facevano pagare. Ma io, non è giusto che facciano questi prezzi così. E poi la birra è molto aperta, costava 1200 lire, mica ce la mettiamo nei principi. Non è che siamo nati oggi o con l'inizio in bocca. Bravo, fonete sì. Hanno tutto aumentato, ma c'è la biglia nell'uccio. La sardina, ho la talia, comparavo a 1000 franchi, 1200 franchi, vado a piccare. Ma 7,50 così. E non mi biglio l'orato, posso prima, 15.000 franchi, ma c'è la biglia nell'uccio. Se prima ti la regalavano i sardini, prova andava. Se ti mi regalano in sardina. Non se ne regalano, tu lo vedi anche nei negozi, già pulita, 5-7 euro, una vaschettina piccola piccola, ma va, fatto un brutto. E se avessi qualcuno e sei scindato, attenzione sul canale 10, Gianni ci sei o chi c'è, non ha negato la tariffa. Era anche Luca qua, boh, tariffa anche lui. Luca! Attenzione Luca, ma che... Evidentemente si è spostato. Questa cosa. C'era anche lui qua. Ha detto due parole in grossi e si è ritirato. Evidentemente si è abbioccato Gianni. Vedava, si ripete e si riposi. Andare. No, io mi sarei passato un pochettino dopo mangiato. Un'oretta, non di più, ma perché mi hanno chiamato il telefono, mi sono citato, boh, non ci viene più sotto, non mi sono cominciato. E mi sono mangiato un po' di noci. Ho visto che poi già piove, poi smette, poi ripiove, ma c'è la piglia di luci. Niente, giornata così è mia Natalia. Infatti. Beh, allora mi andò a preparare che cosa a mangiare. No, faccio. A chi? Vabbè. Ma così allora. Allora subito magno. Cosa vuoi ti dire? Eppure ha messo oggi una nuvola e poi il sole invece nuda. E domani c'è di buon pioggia, messo da piglia luce. Ti sto chiedendo, dovevi andare a me cognata, cazzo. Ma cosa anda? Il fungino? Cazzo. Domenica. Lunedì la pioggia, martedì la pioggia, mercoledì non c'è niente. Giovedì così così e venerdì il sole, sabato sole, più giorni, domenica sole con la nuvoletta, la pioggia mercoledì prossimo. Vabbè, non questo mercoledì, l'altro ancora. Comunque, domani torna Eva, manco un sole ci vede. Ma dice che dovrebbe migliorare da mercoledì, mercoledì e giovedì e poi venerdì, sabato e domenica torna a Reo. Ma venerdì, sabato e domenica, comunque, vedo il sole io, il prossimo lunedì è ancora brutto. Quindi, di nuovo vi risulta, oggi non doveva piovere, invece ha piovuto. Domani c'è la pioggia e martedì c'è la pioggia. E comincia a migliorare da mercoledì, giovedì e venerdì e sabato. E sì, vabbè, cosa vuoi ti dica? Poco fa, quando l'hanno data alla televisione, ha detto che migliorava da mercoledì. E poi faceva mercoledì e venerdì, tempo buono, che vira Rusori in Sardegna, in provincia di Sassari, venne la cartina. E venerdì, sabato e domenica da Ravreo. A me pare lo so neanche più indovinente, anche oggi non appunto Eva. E c'ho il coso qui, un meteo, addirittura c'ho lì, e il vento si chiama. E mi dà che non c'è più, c'è nulla, non voletta è sole. E invece Nisba, Eva e buh. E domani acqua. Vabbè che ci vuole l'acqua, ma manca l'acqua. È tutta la ripicia che ti biscia. Allora, puoi fare nulla, io volevo fare qualche cosa, gli fai da te qua fuori. In veranda, non ne posso fare. Purtroppo la veranda è no, che piscia. Il padrone di mezzo e mezza non me la conta mai, e se la piglia luce. Se non ti lo fai dove, pare che non si quasi mai questa cosa. No, io l'ho detto che se non lo viene giusto non gli pago più l'affitto. E glielo posso fare, e lui lo sa benissimo. Perché se viene a passare i Mallucci, hanno un secco ufficio e poi sono cazzi sui. Allora abbia la mucca di 50.000 euro. È un macello, Mattadino, se ne comprende più nulla, Mittoni. Non dice di Napa, finisce la base, la villa, la porta al cervo, ma a me non me ne ha fatto nulla. Io sono in queste condizioni, non l'ho preso, la macca. Hai voluto anche per due volte, la mesa anticipata e mi ha aiutato. E poi mi rompi le balle, mi dice ma un così la faccio la pena, non l'avevo mai. E un contratto che devo fare, subito, quando vuoi, da domani facciamo il contratto. No, guarda che c'è di trovo tra casa e mica, però fammi un contratto, cioè, non ti preoccupare che io adesso te lo prendo più. Fammi la lettera. Già intelligente, la lettera me la può fare, anche se è come se volete la pittura dei tempi, era un prezzo, anche se con niente. Così è l'occhio. Devi stare attento, visto. Lo so, è un anno e mezzo per dire male, balle, che fa il contratto non quasi mai. O te lo so che io pago più tacce adesso della pensione. È come che io, sto prendendo la pensione, non pago gli affitti di niente. Invece non c'è un pagamento di 350 euro, non c'è un prezzo. Quindi automaticamente sono più tassato. E mi sarei scaricato anche, diciamo, a fine anno, non l'avevo detto, il fatturato. Se avevo fatturato, mi tornavo 350 euro a fine anno, invece nulla. Quando è così, non lo sai com'è la situazione, quando è così è losco, non si può scaricare nulla. Lo so, è fatalità, posso scaricarmi le poche medicine che non pago, poi tra l'altro, le poche centesimi pago, per invalidità, eccetera, quello che ho, cardiopatico e diabetico. Ma, ripeto, mi sono magari dell'affitto puntuale, che te che tu, di quello che è fasciato, e che è così, ha fatto incazzare la borsa, mi ha detto, questa casa ha i suoi problemi, consumi di migliaia di euro che ho speso, ma fate cazzo di alzato le bolse e ci ha pensato asciugato, gente, ascolta, non mi rompere le palle, che tu non hai preso manco un centesimo, tutto io qua aggiustato e non rompi a stare il cazzo, mi sono pigliato di dinai e tu, fa neanche a manco. E infatti mi si accusa con il magnasso Ruedi e l'altro in Isba. E allora? Io mi è incazzato con la sorella, a chi mi ha lasciato a me qua, capito? Dice, come sto bene, eri tranquillo, però sempre puntuale, sì, venite, tua sorella è una capassola, e tu mi hai detto all'inizio, io non sono Maria, e tu hai fatto un bicio invece. A me, quando tua sorella, io le dicevo, mi si è rotto il frigorifero, dopo due o tre ore c'avevo già il frigorifero nuovo, mi si è rotto la matrice, Vittorio veniva e regalo la matrice, tu non arrenghi nulla, a voi bene sono gli attendimenti e ti innanzi, quindi avviati. E infatti, ci sono gente così, ma io sono stato per te, me ne avevo indicato una più tranquilla di Gaza. Sì, infatti ho detto, guarda, non ti pago più affitto, perché mi sto cercando casa, come hai detto tu, ti cercano anche a casa, e ci vogliono i soldi due mesi a fondo, due o tre mesi a fondo, più un mese corrente, io soldi non li ho, li ho detto a lui, e quindi devo mettere i soldi a parte, e a te ti non ti dico più nulla, e rimane un punto, e vabbè. Sì, ma sto cercando la talima, non è facile, non è che tu muovisci, vai da voce con poco che ti pare, c'è per la casa, non è infatti, io ho anche due cagnolini, e i cagnolini sono affezionato, ce l'ho già tre anni qualcosa, non è muso darli via, assolutamente no, non mi fa a me, ma ho un giardino, un altro. Io se trovato a casa, come dico io, minimo voglio una camera, cucina e bagno e un garage, perché io ho tanta di quella attrezzatura, guarda, che ne ho anche dentro casa, non basta più la casetta, non ci ho imparato un'ora, chi si è mannita, ho fatto basamente il cemento, è una bella casetta, c'è una bella attrezzatura, ne ho un'altra, credimi. Quindi mi sirve una casa che va a un garage, oppure che abbia una camera in più, due camere da letto, cucina e bagno, allora va bene, perché una camera la utilizzo soltanto per l'attrezzatura. c'è lui già c'è a casa, noi così. Non si male che lo paga. Bene, bene. Ma però, tanto che si manda, non si manda nessuno. Niente, poi mi sono informato la mia cosa ero andato io, alla fine del ponte. Mi ha spiegato il fatto e mi ha detto. Allora, se lo denuncia, praticamente ti ha il giudice 4 anni più 4 anni, sarebbero o 2 anni a pagare 36 euro al mese, anziché 350 euro. Fai sotto. Il mio figlio mi ha detto, sì, ma padre, dopo 8 ore ti devi andare. Ehi, ma in 8 ore non sai quanto ti andiamo a parte, io sono per in capo. Ma dite, no? Mi danno 4 anni e perché non mi può buttare fuori padre 4 anni. Altri 4 anni perché ho trovato l'evasore fiscale. Solo a fare su senza buttare la buccia che gli altri. Non è isso. Forse c'era qualcuno sotto, Tony. Un attimo che vado a buttare qua il portacene. Un attimo. Vado a buttare il portacene. Vedi se c'è qualcuno sotto. Eia, avanti che chiama attenzione Tonino. Gaba gaba, buonasera, doppio rum da questa parte. Ciao, doppio whisky. È all'ombra dell'ultimo show. In girella sì, con il tempo, come te la gioca sì. Sono andato a un funerale Tonino stasera e poi sono andato da un amico là. E adesso sto tornando a casa. Fra poco devo portare il cane, là, mi fermo 5 minuti in macchina e poi vado. Ok. Riprendi Torino. Ha detto la Torino che di quella frequenza poi si è sparito, sta chiamando o si è dormito Gianni, invece è in macchina. Si è dovuto andare da un amico là. Cappa. Andà bene Meda, la Torino per svuotare c'è fatto cena, è entrato si da Torino. Niente. Che tempo feoga. Vabbè dai, non ci possiamo lamentare noi, con i contrattacchi che succede di continente, voi. Beh, sa, sarei in collina, quindi automaticamente qua è difficile, il fiume non abbiamo che sarà lì, però, capito? Quindi, dimmi che zona sì, sto usando il microfono normale, Gianni. Sono, dai, vicino a casa, sto andando verso casa, dove c'è il ponte, se sai dove è il ponte. Sì, com'è radio la mia, com'è, ma è anche normale, Buona, buona, buona, forte, bella presenza. Capo, no, che tu sei ottimo, dai, come radio. Anda bene. Natali, sei entrato? C'è un cuticci come a lui. Capo, d'accordo. Avanti già. Sono tutto il giorno, corro da una parte e corro dall'altra, sono così stressato. Ma io oggi mi sono fatto un po' i ravioli, così buoni. Poi è venuto la biocca, mi sono trovato in ma un'oretta mi ha chiamato invece il remoto al telefono e me l'ha citato. Un'oretta mi sono dormito, muro di più, non c'era più solo, mi sono alzato. Vabbè, là. Io non ho dormito nulla, proprio nulla perché sono andato troppo funerale. Ma è morto un conoscente tuo o uno che conosciamo CB? No, un conoscente. È la madre di una di mia comadre. Ah, capito. Ho sbagliato anche per lì. Anda bene mela. Domani ha messo in nuova pioggia. La pioggia aveva messo sole e la nuvoletta. E invece tu la difendeva. vabbè. Qualche volta possono anche sbagliare, ma non si sbagliano di molto. Ma si sbagliano di un bel però, per carità. Poverini, quello è tutto il male che ha fatto Prodi, Mortadella e professore Guasto, pezzo di merda del PD che ha messo l'euro e Gesù Cristo si sta rivoltando tutto verso di lui e anche i poveracci innocenti ci stanno passando. Perché i soldi che ha mangiato lui quando era governo, questa roba vecchia a me, non ha mai fatto niente per l'Emilia Romagna, si ha mangiato di là e buh. Cava cava. Oioioi, Santa Antonio di Gallura. E adesso mi fermo 5 minuti e poi vado a casa, dai, che ore sono? Esattamente, cioè le 19.06. E già è ancora presto, là. Mi fermo 5 minuti per rilasso, dai. Oggi non ho manco cantato, va. E quindi allora, certo, via subito da parte dell'altra in macchina. Allora, adesso sono nella strada che porta al monte, quella nuova che hanno fatto, dai, nuova, quella che c'è vicino a casa, quella strada lì, come sta arrivando? A bomba, e io come ti arrivo così? A bomboletto. Se no lo mettiamo ancora così, 1, 2, 3, prova le modulazioni. In macchina, vedi, ti ascolto meglio, riesco a capire bene le parole. Cos'è questo qua? Il lo shure. Gamba. In macchina poi è diverso, riesco a capirti bene. Anche se è forte ti capisco, invece da casa no. Vabbè, questa è un'altra cosa, vai, deve essere in macchina. Non è come in casa, c'è l'antenna più grande, ti arrivo più bene, più forte, quindi senti più forte la radio. Forse in macchina è attenuato, capito? Buonasera che sia quello, ma già mi arrivi abbastanza forte, c'è fondo scala e no? Addirittura. Sto usando il vato del baracchino per il Galaxy. Cappa, già vanno bene. Cappa. È finito la tarico con tu QTC con la 50. Sì. Dai, io 10 anni per te, dai. Dubica, se manda, se sta vicino, io credevo che c'era dormito. No, Natalia, mi hanno fatto la telefonata e sono dovuto uscire, dai. Non ho fatto in tempo a avvisarvi, scusate, ma sono dovuto uscire di fretta. E anche Luca, c'era anche Luca e si è avviato con lui, evidentemente si è dovuto spostare e non ha fatto a tempo a avvisarvi. Non usarci, Gaba, già mangiato, Tatalino? No, negativo, fra un po'. Oggi è tardi, dai. Sì, vabbè. Oggi è domenica, dai. Gaba. Andavè. Torino, mi fai sentire quello là? Attaccare quello? Sì. Dammi mezzo minuto che stacco la terra qua e la metto lì. Avanti Gianni, 1, 2, 3, prova di modulazione, guarda un po' come ti sta arrivando, sto usando quello. Sta arrivando bene, sì, però normale, dagli una... sei col microfono normale, beh. E Roger, col microfono normale sto usando. Tutto qua. E mano, l'ho acceso però non mi piace assai, già, dopo casino, non so come aumentare la potenza. PVR. Cosa? PVR, potenza. Eccolo qua, trovato, guarda un po'. Adesso non al massimo. E già va bene, Poi che cos'è che non sai? Aspetta, adesso l'ho messo un po' a metà, dai. Natalita, ti ha migliorato? Sì, ma stai strappando, non gridare. Sto strappando addirittura. Eia, se non ti allontani il microfono e parli piano, strappa. Ho capito, quindi così va bene? Così è perfetto. Non impazzire, fai prima. Non di più. Ecco, adesso la sua potenza dovrei essere. Non lo so, che no che l'ago si attacca alla fine. Aspetta, già. E adesso? Sempre lo stesso l'ago, non penso, ho messo a metà. No, adesso si è abbassato. Allora, sì, è molto complicato. Vedi, questa della potenza di PWR non lo sapevo. Adesso lo sai. Ma adesso tu stai uscendo con le memorie o con il VFO manuale? Non ci capisco nulla, cioè, per me è sempre l'americano. Io è sintonizzato su 27.075, canale 10 e basta. Allora, ci dovrebbe essere A e B. E dovrebbero essere uno che va in 27 e l'altro che va sui 40 metri, sui 30 metri, eccetera, eccetera. Tu cosa sei, sull'A o sul B? E dove lo trovi io A e B qua? Dei tassini, qua c'è da 1 fino a 9.0, memori, MVFO, scan, MIN, poi, non si capisce nulla qua, VOX, ATT, non lo toccare quello A e B, o sai che tocchi quello che non devi toccare, perché ce n'è scritto uno che A uguale B, se tocchi quello fai un casino. Allora qua c'è funziona, lì scritto infatti TF7, poi a destra ci sono A e B, quello lì è già, poi sotto c'è lo split. Ma ci sono due A e B, c'ha ragione Natalino, uno è A e B e ti sintonizza praticamente e ti manda le diverse frequenze, e l'altro fa casino se lo tocchi, quindi bisogna stare attenti, perché non te lo fai regolare da Claudio, da qualcuno che lo sa regolare? E mi aveva detto Claudio di avvisarlo quando lei veniva, me lo spiegava meglio, me lo aggiustava tutte le memorie, capito? Perché io qua non c'è scritto che siamo sul canale 10, però so benissimo tramite il Galaxy che sia 27.075 sarebbe punto 0, sarebbe la canale 10. Ciao Claudio! Ciao Gianni, lo so, ma in tutte, anche 140, secondo lo Zattucchi si incasina tutto. E niente, bisogna memorizzare i canali e andare in cala di memoria e via, e basta. Poi per fare ascolto vale nella sezione B, poi fai B e ti fai ascolto lì. Sono rientrato qua, ho rimesso l'altro baracchino. Niente, perché mi ho toccato qualcosa di la pomello centrale, mi sono uscito in frequenza e per ricercarla piano piano l'ho detto, beh, forse prima è stato tutto e ho dato il Galaxy. Sentito, mi è entrato, sì, ma l'avevi detto, infatti lo stavo appena spiegando a Gianni che sto fatto qua, e tu me l'avevi detto. Ciao, buon ascolto, dai, avanti Natalie. Io me ne vado a mangiare, salutando tutti, dai, alle cruci, che devo mangiare adesso. Ok, ciao Claudio, loco Retti, loco Rix, ciao Natalino, carica batteria, ci sentiamo, avanti già. Ehi, andave, ciao Natalino, buona carica. Ci sentiamo dopo magari, sentiamo, va. Io me sono uscito un po' a prendermi un po' d'aria, per rilassarmi due secondi, perché ho fatto troppe cose oggi. E poi ho fatto una cazzata oggi, vabbè. Stavo facendo mille cose, ho messo il pollo in forno, sento questa puzza, è bruciato, mi si è bruciato tutto il pollo, tutto il pranzo ha dato all'aria. Certo, quando accendi il forno stai sempre attento, non dimenticarti di fare altre cose, se no sei in casino. O ti metti la sveglia al telefono, così ti ricordi che c'è ancora il forno. È un casino, per carità. E quindi usi a mangiare? Ah, vabbè, io c'avevo altra roba, ho fatto altra roba, non è quello il problema. E mi sono arrangiato, però niente. Sono stato 3 ore che grattavo quella teglia e si è tutto incrostato, un avvio fiago di fumo. Lo sai cosa è successo? Che l'ho messa nella cucina che c'è in terrazzo e quindi ho chiuso la porta e poi me ne sono dimenticato. Ho cominciato a lavare in terra, a fare, alla fine ho sentito questo odore.